Qualcuno diceva che le parole sono importanti, lo pensiamo anche noi. Oggi stiamo presentando un manuale per un linguaggio che sia inclusivo, che valorizzi le differenze nella comunicazione che ha la pubblica amministrazione sia al suo interno sia verso l'esterno. L'importanza di declinare per esempio alcune cariche istituzionali ma anche professionali al femminile, secondo noi è un modo di stare al passo coi tempi, fare anche notare che alcuni tempi cambiano e che professioni che un tempo faceva strano sentire declinate al femminile, in realtà correttamente utilizzando poi le regole della grammatica italiana vanno declinate al femminile. Questo significa anche dare visibilità per esempio alle donne all'interno di ruoli sia nella pubblica amministrazione che all'esterno e dare anche un potere di immaginazione e di rappresentazione, come con il protocollo No Women No Panel, far vedere a una bambina fin dalla più giovane età che può svolgere qualsiasi ruolo, può avere qualunque professione, qualunque incarico, dà già un orizzonte di opportunità, di possibilità. Quindi molto spesso quando si tocca questi temi si parla di benaltrismo, no? Come mai vi occupate di questo? Ci sono tante cose importanti di cui occuparsi, una pubblica amministrazione si occupa di tante cose tutte insieme, ma anche questo è un tema molto importante perché significa creare anche un linguaggio in cui i cittadini e le cittadine si sentono inclusi, valorizzati nelle loro differenze già quando la pubblica amministrazione parla con loro. A chi è rivolto in particolare, dove si può trovare? È rivolto in particolare a partire appunto dalla pubblica amministrazione, nel senso che anche oggi è stata fatta una formazione specifica con i dipendenti, quindi utilizzo interno, ma anche l'utilizzo che fa l'amministrazione verso l'esterno, quindi sarà disponibile su tutti i nostri canali istituzionali perché pensiamo possa essere un compendio utile anche appunto nel rapportarsi alle differenze, tra l'altro non solo le differenze di genere ma anche appunto altri tipi di differenze che possono essere valorizzati.